cerca un buco che non trova mai. Il mondo si è rinchiuso dentro un Parlamento, ma i bimbi fuori muoiono lo stesso. Che bel discorso che scriverai. Sarò fuori se vuoi, ma lì dentro con te non ci sto, resto borderline. Sarò fuori se vuoi, ma lì dentro con te io non ci sto, io sono borderline. Era sto borderline, era sto borderline, era sto borderline così. Il tempo ci ha insegnato che non è cambiato niente, quella che ora chiamano democrazia si chiamava impero mille anni fa. Un quarto dorme dentro il suo benessere apparente, tre quarti vivono mangiando i suoi rifiuti. Questa è la storia, questa è la realtà. Resi obesi e teledipendenti, basta avere pane per i nostri denti e tutto il resto cosa ce ne può fregare. Che bello, ci hanno messo tutti in fila a dare il voto, io non ci sto, il mio cervello è vuoto e resto fuori coi borderline. Massimo coinvolgimento, ce lo stiamo mettendo dietro, appena il ghiaccio si scioglierà. In fondo stiamo scivolando in un buco nero, dentro il computer senza memoria, la nostra storia si perderà. Sarò fuori se vuoi, ma lì dentro con te io non ci sto.